La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con La storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole è dedicato alle storie delle donne durante la Seconda Guerra Mondiale. Alcune delle loro vicende umane sono raccolte nel volume edito da EDS Pane Nero, Donne e Vita Quotidiana nella Seconda Guerra Mondiale, di Miriam Maffai, che sarà ospite ai nostri microfoni. Nella seconda parte vi proponiamo, in collaborazione con History Channel, un radiodocumentario sulla storia della Rosa Bianca, l'esperienza di un gruppo di studenti che si opposero al regime nazista. Ma ora, la parola a Dino Pesole. Gli uomini al fronte, le donne al lavoro e ad accudire ai figli in assenza dei mariti che in molti casi non fecero ritorno a casa. Storie di donne nella Seconda Guerra Mondiale, storie e vicende umane che attraversano nel loro ritmo quotidiano il conflitto mondiale e che ora ci vengono raccontate in un bel libro scritto da Miriam Maffai per EDS dal titolo Pane Nero, Donne e Vita Quotidiana nella Seconda Guerra Mondiale. Emerge un vissuto fatto di tante singole storie, uno spaccato per molti versi inedito di donne di diversa estrazione, alle prese con la fame e la guerra, obbligate a cercare un lavoro e a prendere decisioni, ad aiutare coloro che sparavano o a sparare loro stesse. Donne obbligate in qualche modo a uscire dal ruolo che era stato affidato loro dal fascismo e dalla Chiesa di mogli e madri esemplari. Luciana, che partorisce in un basso di Napoli nell'intervallo tra due bombardamenti. Bianca, che con i figli, il grammofono e la cassetta dei gioielli attraversa a piedi l'Abruzzo. Marisa, che a Roma, occupata dai tedeschi, impara a sparare. Sofia, che da Milano si rifugia con le sue provviste di tè e la sua biblioteca in un paesino al confine con la Svizzera. Zita, la mondina di Cavriago che ha il fratello partigiano e il fidanzato nell'esercito repubblichino. La confinata Cesira. Lela, che comanda le ausiliarie di Salò nel Veneto. Carla, che durante la guerra fa la postina aspettando il ritorno del marito. Lucia, che impara a guidare il tram a Milano e il marito non lo aspetta più. Queste e tante altre sono le donne che ho avuto la fortuna di conoscere e di cui a un certo punto ho avuto voglia di scrivere la storia. Alla fine non ho scritto la storia di una soltanto di loro, benché per ognuna ce ne fosse abbondante materia e possibilità. Ho tentato invece di scrivere la storia di tutte queste donne insieme, attraverso gli anni che vanno dal 1940 al 1945. Il racconto parte dal 10 giugno del 1940, quando l'Italia di Mussolini entra in guerra a fianco della Germania nazista. Combattenti di terra, di mare, dell'aria, camicie nere della rivoluzione e delle legioni, uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albania, ascoltate, un'ora segnata dal destino batte il cielo della nostra patria. L'ora delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori, di Gran Bretagna e di Francia. Roma era felice quel 10 giugno del 1940. Lo erano anche Milano, Torino, Cosenza, Bari, Palermo, Bologna e Firenze. La guerra sarebbe durata poche settimane e la vittoria era sicura. Parigi stava per cadere e presto sarebbe caduta anche Londra. Questi erano i sentimenti comuni tra gli italiani indottrinati dalla propaganda fascista. Nulla nella sensazione prevalente lasciava presagire al quale immane disastro l'Italia e il mondo stavano andando incontro. La vita continuava con le mille storie di ognuna delle protagoniste del racconto. Silvia aveva sognato di iscriversi a medicina una volta finito il liceo, ma era donna ed ebrea. Non sapeva ora quanto e se lo scoppio della guerra avrebbe ulteriormente modificato i suoi progetti. Aveva 16 anni e poteva aspettare. Giulia finì la consegna del latte, fece un giro largo prima di tornare a casa. Al padre, che mangiava silenzioso, annunciò che era scoppiata la guerra e che tutti dicevano alla stazione che sarebbe finita presto. «La guerra durerà degli anni», disse il vecchio mezzadro, «e sarà la tomba di Mussolini». «Finalmente». Anche nelle carceri e nelle isole di confino la notizia dello scoppio della guerra fu accolta con soddisfazione. Attraverso la guerra il fascismo sarebbe caduto. Così pensavano i condannati del tribunale speciale. Un centinaio di donne erano passate davanti al tribunale ed erano state condannate. Una di esse, Adele Bey, scriveva alla figlia dal carcere di Perugia: «Angelina mia tanto cara, l'esperienza di 6 lunghi anni di questa triste vita mi ha insegnato che occorre avere pazienza e grande fiducia nell'avvenire». Ma l'amore no, l'amore mio non può disperdersi nel vento con le rose, tanta forte che non cederà, non sfiorirà. Abbiamo in linea Miriam Mafai, che è l'autrice di questo bel libro Pane Nero, Donne e Vita Quotidiana nella Seconda Guerra Mondiale, pubblicato da IDS, che ci ha un po' condotto per mano nel nostro approfondimento odierno. Prima di tutto grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi e un saluto a chi ci ascolta. Bene, allora, com'è nata l'idea di raccontare le storie di molte donne durante i 5 anni della Seconda Guerra Mondiale? Io non amo le autobiografie, ma in realtà questo libro è una sorta di, come dire, autobiografia collettiva, ecco, perché non c'è anche la mia storia, perché io ho attraversato quegli anni, ero molto giovane, ma ho attraversato quegli anni, ma ho voluto invece raccontare in modo più ampio come le donne italiane, quindi non solo io, non solo la mia famiglia, non solo le mie sorelle, non solo le mie compagne di scuola, ma come altre centinaia, migliaia di donne hanno vissuto quell'epoca, che è un passaggio fondamentale per la storia del nostro paese e anche per la storia delle donne. Ecco, una cosa nella prefazione mi ha colpito, quando lei ricorda che parlando di quel periodo, alcune delle protagoniste del racconto, Carla, Lucia, Marisa, Luciana, Lela e Cesira, dicessero a un certo punto, come sovrappensiero, però in fondo è stato bello. È vero, questo voglio dire ha colpito anche me, come ha colpito lei e come colpisce i lettori. Ci tengo a dire che è tutto molto autentico. I nomi che lei ha fatto adesso di quelle donne che hanno parlato con me sono nomi di donne vere, non c'è assolutamente niente di inventato in questo libro. Così come non è inventato che molte donne, dopo avermi raccontato delle storie che io trovavo drammatiche, dicevano, ma però è stato bello, è stato anche bello. Io credo di poter dare una spiegazione in fondo di questa affermazione che può sembrare un po' paradossale, persino un po' assurda, ed è il fatto, risiede nel fatto che le donne in quel periodo sono state costrette ad assumere nelle proprie mani il proprio destino, la propria vita, a prendere loro stesse delle decisioni che prima venivano prese dal padre, dal fratello, dal marito, e quindi hanno assaggiato, se così si può dire, il gusto, che può anche essere amaro, però è il gusto della indipendenza e della scelta autonoma. Ecco, credo che sia stato questo che le ha spinte a dire però è stato anche bello. Un'altra cosa secondo me vale la pena di citare dal libro, quando lei racconta che quel 10 giugno del 40, quando l'Italia di Mussolini entrò in guerra a fianco della Germania di Hitler, in fondo Roma era felice. Lo erano anche Milano, Torino, Cosenza, Bari, tante altre città italiane, perché la sensazione era che la guerra sarebbe durata poco e la vittoria era sicura. Questo è un elemento di cronaca importante. Sì, le dirò una cosa, che è stata un'affermazione che mi è stata contestata da una più giovane amica di sinistra quando l'ha letta. Dice, ma come? Tu dici che la gente era felice, a me invece mio padre, mio nonno, mio zio, non so chi, mi avevano detto che tutti erano così preoccupati, contrariati e contro la dichiarazione di guerra. Questo per la mia esperienza, ma anche per quello che hanno rilevato gli storici, più, come dire, autorevolmente di me, non è vero. E questa notazione è importante perché dice una cosa che è vera, cioè che il fascismo ha avuto un largo consenso in questo paese. Non è vero che eravamo tutti, io ero una ragazza, certo, insomma, ma che non erano tutti antifascisti, e questa è una cosa importante, perché in realtà quest'idea che fossimo tutti antifascisti è servita ad una sorta di assoluzione collettiva del nostro paese, no? Non si trovava più nessuno che fosse stato fascista, invece lo eravamo, diciamo, un po' tutti, comprese quelle bambine, quelle ragazze, quei giovanotti, quei padri, eccetera, che sono andati a Piazza Venezia a Roma e in altre città, nelle piazze principali, ad ascoltare quello che diceva Mussolini. La storia e la memoria. Ben ritrovati. Il radiodocumentario che vi proponiamo questa sera ripercorre la vicenda di un gruppo di studenti cristiani che, durante la Seconda Guerra Mondiale, si oppose al regime nazista di Hitler. La loro protesta non violenta veniva portata avanti tramite dei volantini distribuiti nelle università e firmati con il nome di Rosa Bianca. A raccontarci questa incredibile storia saranno la sorella di Sophie e Anne Scholl, entrambi membri della Rosa Bianca, ed alcuni loro compagni e amici. Nel 1939 il 90% dei giovani tedeschi sono iscritti alla gioventù hitleriana. Fra questi ci sono anche Sophie e Anne Scholl. Del Terzo Reich ci aveva affascinato subito lo spirito cameratesco della gioventù hitleriana. Eravamo come una grande comitiva di amici. Si faceva bricolage insieme, si cantava insieme. Eravamo tutti coetanei e questo fu determinante. Ci trovavamo in 20 a fare la stessa cosa, a pensare la stessa cosa. E naturalmente si diventava amici. Avevo 10 anni e mezzo ed ero a scuola. La porta si aprì di colpo ed entrarono due ufficiali donne della gioventù hitleriana con un tavolino. Nella nostra classe c'erano 3 file di banchi. Ci fu ordinato di uscire in corridoio una fila dopo l'altra. Poi dovemmo dire il nostro nome, indirizzo e il nome di nostro padre. Alla fine le due donne in uniforme ci dissero: «Da oggi fate ufficialmente parte della gioventù hitleriana». Ai primi tempi non feci amicizia con Hans Scholl, perché era a capo di una unità di adolescenti e non parlava con ragazzi di 5 o 6 anni più piccoli di lui. Lo consideravo un capo presuntuoso che dava ordini con modi piuttosto rudi e scarlatti. Istituirono addirittura una giornata nazionale della gioventù. Ormai nessuno poteva più dire o fare ciò che voleva. C'era un modello a cui si dovevano tutti uniformare. Avevamo delle bandiere diverse da quelle naziste. Recavano l'effigie di un drago che avevamo ricamato noi. Ci dissero che erano proibite e ci spedirono tutti in un soggiorno di punizione. Da quel momento ci fu la rottura e fu definitiva. Anche Elisabeth fu cacciata, insieme ad altri 5. Secondo me avevano soltanto aspettato il pretesto giusto. Probabilmente avevano già notato che eravamo piuttosto critici e ribelli. 9 novembre 1938, Notte dei Cristalli. I nazisti seminano terrore fra gli ebrei tedeschi, saccheggiando e distruggendo le loro proprietà. Avevo un'amica ebrea che si chiamava Louise Nathan. Abitava con la sua famiglia in un altro quartiere della città. Sentivo il bisogno di andare a trovarla per dire che secondo me quello che stava succedendo non era giusto. Ma ero troppo timida. Non so perché mi vergognavo. D'altra parte non potevo andare là e dire: «Buongiorno, per caso siete stati picchiati?» Non potevo far niente. Io e Sophie avevamo fatto una gita sulle rive del Danubio. Era il 31 agosto 1939, il giorno prima dell'inizio del conflitto. «Speriamo che non scoppi la guerra», le dissi. E Sophie: «Sì, invece, speriamo che qualcuno riesca a fermare Hitler». Prima di ricominciare a studiare, bisognava partecipare ai turni di lavoro obbligatori. Sophie aveva deciso di boicottarli e si iscrisse all'Istituto Fröbel. Una scuola per maestre d'asilo, l'avevo frequentata anch'io. Me ne ricordo bene, era l'anno scolastico 40-41. Avevamo superato gli esami alla fine della primavera e in autunno sono entrata all'Istituto Fröbel. Sophie era già una convinta antinazista, diceva bisognerebbe entrare nella Lega delle ragazze tedesche e denunciare i loro metodi. Sophie voleva studiare insieme ad Hans. Quando Hans fu ammesso nell'associazione studentesca di Monaco, lei lo seguì e si trasferì nella stessa città. Hans sapeva benissimo quanto la sorella soffriva sotto il Terzo Reich e quanta pena si dava pur di trovare qualche sistema per opporsi al regime. Sophie era decisamente contro. Perfino durante la raccolta della lana, fece in modo che ne venissero sabotate alcune partite. Non dovevano arrivare integre al programma di aiuti invernali per i soldati al fronte. Nell'estate del 1942, Alexander Schommerl e Hans Scholl scrivono 4 volantini della Rosa Bianca, ne stampano e ne spediscono 100 di ognuno. Era il 2 o il 3 luglio 1942. Mi incontrai con un mio compagno di classe insieme ad altri 2 o 3, tra cui Heinz Brenner. Hans Hirsel ci aveva offerto un bicchiere di vino. Era la prima volta che bevevo. Dopo qualche sorso, estrasse un foglietto e mi disse: «Leggi». Era il volantino. Gli chiedemmo da chi lo avesse avuto e lui rispose: da Hans Scholl. Lo trovai estremamente pericoloso. I membri della Rosa Bianca aumentano le loro azioni di resistenza, stampano i volantini in grosse quantità e li distribuiscono in molte città. La parte più difficile dell'impresa era andare all'ufficio postale a imbucare le lettere. All'epoca a Ulm di uffici postali ce n'erano solo 4 o 5. Uno dopo l'altro li visitai tutti dicendo che volevo 100 o 200 francobolli da 6 o 8 pfennig. L'impiegato mi chiese a cosa servissero. Gli risposi che molti miei parenti erano caduti in battaglia. Non mi venne in mente nient'altro. E l'impiegato mi disse: certo, naturalmente. Nel dicembre del 1942, gli studenti della Rosa Bianca si confidano con il professor Kurt Huber, che scrive il 6° ed ultimo volantino. Care studentesse e studenti, il popolo tedesco è scosso dalla sconfitta dei nostri uomini a Stalingrado. La geniale strategia dei signori della guerra ha provocato l'inutile morte di 330.000 soldati tedeschi. Grazie, Führer. Siamo cresciuti in una nazione in cui l'espressione di qualsiasi libera opinione viene repressa. Gioventù hitleriana, SA ed SS hanno cercato di uniformarci, omologarci e narcotizzarci negli anni più fecondi della nostra crescita. Il nome della Germania rimarrà macchiato per sempre se la gioventù non sarà capace di insorgere, ribellarsi e vendicarsi, eliminando i suoi torturatori e dando vita a un nuovo spirito europeo. Il 18 febbraio 1943 il custode vide i fratelli Scholl distribuire volantini dentro l'università di Monaco. Il vicerettore chiama la Gestapo. Sophie e Hans Scholl vengono arrestati insieme ai fratelli Willy, Anneliese Graf ed altri loro amici. In tutto il Reich, la Gestapo arresta altri membri della Rosa Bianca e i loro familiari. Salimmo le scale, entrammo a destra in una grande stanza dove c'erano degli scaffali con scritto Scholl, Scholl, Scholl, Rosa Bianca. Ci portarono via senza manette. Poi ci caricarono sul sedile posteriore di un'auto. Era una grossa berlina. Davanti c'erano 2 uomini. Mio fratello, che solitamente non era molto affettuoso con me, mi prese spontaneamente la mano e me la strinse. Questo mi diede molto coraggio. Non sapevo assolutamente dove stessimo andando. I fratelli Scholl e Probst furono i primi ad affrontare il processo. Nel corso di un breve dibattimento durato 5 ore, furono reputati colpevoli e ghigliottinati il giorno stesso. Gli altri membri chiave del gruppo, processati il 19 aprile 1943, furono anch'essi trovati colpevoli e decapitati durante i mesi successivi. Se un gruppo di adolescenti era stato capace di capire che il nazismo avrebbe portato il nostro paese alla rovina, a maggior ragione il popolo tedesco nel suo insieme, fatto di uomini e donne certo non privi di esperienza, avrebbe dovuto comprendere in quale abisso saremmo precipitati. Non occorreva essere dei geni. Prima di chiudere, vi segnaliamo che la versione integrale del documentario che avete appena ascoltato andrà in onda su History Channel il 23 febbraio alle 12.25. Un ringraziamento in redazione a Gloria Guerrera e Daniele Casagrande. La storia e la memoria vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buonanotte.